Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Innanzitutto avete sentito il promo, quei 10 secondi che venivano subito prima di Focus Economia. Andiamo a festeggiare nella giornata di domani i 15 anni di Radio 24. Questa mattina con Effetto Giorno abbiamo lanciato l'hashtag e in molti ci state scrivendo su Twitter: auguri Radio 24. Bene, se volete scriverci continuate a farlo e leggeremo qualcosa anche durante Focus Economia. Vi dico che oggi tra l'altro abbiamo qualche problema con gli SMS, vi aggiornerò se verranno ripristinati, e quindi se avete da scrivere qualcosa, se volete commentare la trasmissione, è a Twitter che mi raccomando di rivolgervi, mi trovate là se volete, Simone Spezia. Di cosa parleremo oggi? Allora, dopo la terribile giornata dei mercati di ieri, torneremo sui mercati come sempre nell'appuntamento con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Oggi vi dico che la giornata è positiva, un più 1,35% sul FTSE MIB, un più 1,29% sul FTSE All Share. Le cose vanno meglio rispetto a quello che erano a metà giornata, quando i guadagni erano intorno allo 0,7%. Ebbene, fa il resto d'Europa: Parigi guadagna lo 0,93%, Londra l'1,21%. Per quanto riguarda l'America, il Dow Jones guadagna lo 0,84%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,93%, il Nasdaq l'1,19%. Questo per quanto riguarda i mercati. Poi ci arriveremo, ci sono anche singole storie interessanti. Oggi World Duty Free cede il 10,5%, di questo vi ripeto torneremo a parlare più avanti. In apertura ritorneremo sul tema del TFR, questa ipotesi del governo di mettere una parte o addirittura l'intero trattamento di fine rapporto nelle tasche dei lavoratori, probabilmente con un bonus mensile, perché domani uscirà un sondaggio su Plus del Sole 24 Ore con delle indicazioni interessanti su quello che pensano i lavoratori a proposito di questa ipotesi, su quello che pensano le imprese. Lo sappiamo, c'è qualche perplessità perché verrebbe a mancare della liquidità, in sostanza, no? Verrebbero a mancare dei soldi alle imprese, la diciamo molto, molto semplicemente. E allora il governo sta ragionando in questo momento su che cosa fare. L'idea che ha lanciato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è che le banche prendano i soldi che gli arriveranno di fatto dalla BCE, che hanno proprio come obiettivo quello di andare a finanziare l'economia, in particolare le piccole e medie imprese, come ha ribadito anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e virino questi soldi sulle imprese che devono dare il TFR ai lavoratori. Dietro questa operazione naturalmente ci sono un sacco di problemi da analizzare, non ultima la tassazione, perché essendo il TFR tassato, come verrà tassato nel momento nel quale entrerà in busta paga? Andrà a caricarsi sull'IRPEF complessiva e quindi sarà tassato ancora di più? Insomma, ci sono una serie di elementi da chiarire di un'operazione che evidentemente scusate, è ancora tutta da scrivere. Toccheremo questo tema e toccheremo il tema del petrolio. Scende anche oggi dello 0,5% a $88,5 al barile in apertura, almeno a New York. Ospiteremo la collega del Sole 24 Ore, Sissi Bellomo, che oggi firma un'analisi interessante, un racconto interessante, spiegando che questa è un'azione che sta mettendo in campo di fatto l'Arabia Saudita. È l'Arabia Saudita che sta spingendo al ribasso il prezzo del greggio. Bisognerà capire tutto questo che effetto avrà. Vi segnalo che nel frattempo, in una giornata complessivamente positiva sul listino milanese, tra i pochi titoli negativi c'è proprio Eni, che cede lo 0,06%. Tutto questo come ovvio, ha sempre un impatto soprattutto sulle compagnie petrolifere. E poi, così come ha fatto chi ci ha preceduto, ossia Oscar Giannino, torneremo sul tema delle fondazioni liriche, sul tema, sulla vicenda dell'Opera di Roma e degli orchestrali licenziati, perché naturalmente, e come anche Oscar vi ha raccontato poco fa, in questo caso è una questione che ha due aspetti. Un aspetto che riguarda più puramente appunto il tema della lirica in Italia e questa operazione che viene fatta molto realizzando un sistema molto simile a quello che vige e che esiste in altri paesi europei e che funziona molto bene. Dall'altra parte naturalmente si apre una questione più generale in merito a determinati privilegi che erano inseriti all'interno del contratto di questi lavoratori, dei lavoratori, degli orchestrali dell'Opera di Roma, e un tema più generale su quanto certe resistenze sindacali evidentemente allontanano gli investimenti. Considerate che dopo l'uscita di scena di Muti dall'Opera di Roma si sono ritirati 4 sponsor da 1 milione di euro ciascuno, e questo naturalmente poi alla fine un impatto sui conti ce l'ha. Tutto questo lo tratteremo nella seconda parte della trasmissione. Parleremo anche col sovrintendente all'Opera di Roma, oltre che insieme al collega del Sole 24 Ore Salvatore Carruba. Le notizie in breve di oggi. Vi abbiamo detto, scende di 0,5 punto percentuale, giù anche l'oro dello 0,5% a 1210 dollari l'once. Dal mercato dei cambi ci arriva notizia che c'è un nuovo minimo del rublo sul dollaro, 39,90 rubli per la moneta americana. Ieri un intervento di Vladimir Putin non ha fornito, evidentemente, dicono gli operatori, segnali di svolta sulle prospettive di sviluppo. Interessante sarà da approfondire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane quello che sta succedendo in Sud America, almeno nei due paesi più grandi. Il governatore della Banca Centrale Argentina, Juan Carlos Fabregas, si è dimesso. E la presidente Cristina Fernández de Kirchner, che poche ore prima aveva criticato la sua gestione, ha accettato le sue dimissioni. Sarà Alejandro Vanoli, presidente della Commissione Nazionale Valori, ad assumere provvisoriamente l'incarico. Questo sarà un tema su cui tornare, così come è quello delle elezioni in Brasile, che ci saranno domenica. Il governo uscente di Dilma Rousseff, a caccia del secondo mandato, si confrontano con lei l'ambientalista Marina Silva e il centrista Aécio Neves. Molto probabilmente si andrà al ballottaggio. Il dato di oggi è sicuramente quello degli Stati Uniti, è quello che poi probabilmente ha confortato i mercati: 248.000 posti in più creati in settembre. L'economia americana tira, tasso di disoccupazione al 5,9%, ai minimi dal luglio 2008, dato migliore delle attese degli analisti. E sempre dagli Stati Uniti c'è questa notizia che ha giustamente colpito molto: un enorme attacco hacker a JP Morgan. Sono state violate e compromesse le informazioni di 76 milioni di famiglie, 2/3 dei clienti individuali della banca e 7 milioni di piccole imprese. Non è dato di sapere quanti di questi si trovino negli Stati Uniti. Violazioni inizialmente rilevate ad agosto, ma il numero di informazioni sottratte è più ampio rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Sull'attacco si sta ipotizzando che arrivi dall'Europa, probabilmente dal sud Europa, qualcuno dice addirittura dall'Italia. Da vedere naturalmente, per chi in rete probabilmente c'è anche la possibilità, per chi ne conosce i meccanismi, di far rimbalzare, come dire, questo segnale di attacco in altri luoghi e non far capire effettivamente da dove arriva. Apprendiamo oggi da indiscrezioni diffuse da Bloomberg che anche la Banca Centrale di Francia si sarebbe opposta al piano della Banca Centrale Europea per l'acquisto degli ABS, ma a differenza di quelle di Germania e Austria, che sono timorose per i rischi assunti da Francoforte, avrebbe contestato proprio le modalità dell'operazione. Detto ciò, come giustamente segnala il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, bisogna riconoscere in maniera molto chiara, ma lo dice anche Draghi in ogni conferenza stampa, che la BCE non può fare tutto. Possono aiutare le banche centrali, per spingere il credito, ma gli aspetti strutturali devono farli i governi. Quante volte l'ha detto Draghi? Non possiamo sostituirci a voi. In Irlanda intanto la banca centrale ha alzato la stima del PIL 2014 dal 2,5 al 4,25%. La ripresa economica diffusa, si dice. Rivista al rialzo anche la stima del PIL 2015 dal più 3,3 al più 3,4. Ma cala intanto l'indice PMI composito dell'Eurozona, a settembre è sceso a 52 da 52,5 di agosto, livello più basso da novembre 2013. E cala anche il PMI composito dell'Italia, calcolato da Market Economics, a 49,5 da 49,9. Ancora giù i prezzi delle case, dati dell'Istat, meno 11,2% dal 2010. E però c'è anche qualche segnale positivo, e diciamolo. Innanzitutto British American Tobacco, che ha deciso di investire 1 miliardo in Italia, 650 milioni per acquisto di macchinari, e poi c'è anche sostegno alle coltivazioni e alla filiera di produzione del tabacco, e c'è una parte destinata alla comunicazione e allo sviluppo dei prodotti. E poi l'aumento delle presenze per il turismo registrato dall'Istat nel secondo trimestre del 2014 rispetto al secondo trimestre del 2013, più 3,6%. Infine tutta la riflessione sull'articolo 18. Allora, innanzitutto c'è Joram Gutgeld, che è il consigliere economico di Palazzo Chigi, che dice che si potrebbe ricorrere alla fiducia per il Jobs Act, per la riforma del mercato del lavoro. E è già in corso la ribellione della minoranza PD, ve lo dico subito. Il presidente della regione Piemonte, Chiamparino, altro e presidente della conferenza delle regioni, non arriva a dire che l'articolo 18 sia un falso problema, ma dice: al di là di quello, dico che ci sono altri problemi su cui lavorare. Il presidente di Confindustria, Squinzi, dice che vede Renzi determinato e ha fiducia. L'articolo 18 è un simbolo, aggiunge, un mantra da modificare. Infine una dichiarazione di Sergio Marchionne, che ieri si era schierato tra l'altro favorevole all'ipotesi del TFR in busta paga, parla di Fiat invece, dice: i lavoratori in cassa integrazione rientreranno tutti quando ripartirà completamente la macchina industriale, i lavoratori ora in cassa rientreranno tutti, gli investimenti, aggiunto, li stiamo facendo, ho sempre detto che sarebbero rientrati tutti. Iniziamo dal nostro primo tema, che è proprio il TFR. C'è un sondaggio che uscirà domani su Plus 24, il Sole 24 Ore, e abbiamo con noi Paolo Zucca. Paolo, ciao, buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Allora, che cosa ci dice questo sondaggio? Ci dice innanzitutto che il tema TFR è un tema molto sensibile per gli italiani, per i lavoratori di tutti i tipi, anche per i professionisti. È il tema della previdenza, non è tanto il tema del TFR, quindi quanto accantonare, quanto pensare alla parte della propria vita che segue l'attività di lavoro e quanto invece c'è necessità di soldi adesso. Quindi abbiamo provato a fare un piccolo sondaggio, è stato molto disponibile PR Marketing che ce l'ha fatto ieri mattina, quindi è un sondaggio freschissimo, ha sentito 1000 italiani secondo la campionatura classica per sesso, zona eccetera, infatti verranno riportati i dati anche per età e per zona geografica, per capire un po' cosa ne pensano di questa proposta, se così possiamo chiamarla, perché al momento è soltanto abbozzata del governo, tanto è vero che oggi il sottosegretario all'economia Baretta ha cominciato a dire ci sono dei pro e contro, vanno valutati con attenzione. Stiamo ragionando, ci sono molte questioni da chiarire. Comunque, detta così, mettere a disposizione 100 euro da gennaio nella busta paga rispetto all'accantonamento al TFR o altre forme previdenziali. Ebbene, c'è una leggera prevalenza, leggera 52%, per a favore di questa proposta del governo, così come è stata abbozzata. È una percentuale, diciamo così, minima, comunque dà un certo, già un primo approccio. Di questi argomenti si vuole parlare, si vuole avere forse più libertà d'azione rispetto alla situazione attuale. Speriamo che sia una buona occasione per discutere di previdenza. Perché tra l'altro, Paolo, nell'ipotesi del governo, tu dicevi, si vuole avere maggiore libertà di scelta. Non sappiamo ancora che cosa si sta pensando, no? Se il governo stia pensando ad una scelta o a una non scelta, cioè a un'obbligatorietà, oppure... No, un'obbligatorietà credo proprio che non possa passare, dovrebbe rimanere sempre un atto volontario, però la possibilità di avere del proprio TFR una quota a parte invece che destinata al futuro, o semmai nelle occasioni classiche, cioè acquisto della casa o gravi motivi di salute per cui si può smobilizzare un po' il TFR, averlo. E ricordiamo che sono soldi dei lavoratori, e questo è il primo chiarimento da dare a tutti, non è nessun regalo, sono soldi dei lavoratori, può essere, diciamo, disponibile mese per mese. Questo farebbe bene ovviamente ai consumi del paese, che è un buon obiettivo, riuscire a riprendere un po' con i consumi. Ci viene da pensare che potrebbe però essere speso parte del proprio futuro, ed è proprio uno degli argomenti che noi abbiamo voluto toccare nel sondaggio. Io adesso vi invito naturalmente alla lettura completa dei dati, e non sarebbe utile qui dare percentuali in continuazione, forse sarebbe anche molto noioso. Però c'è una disponibilità, diciamo, degli italiani, quanto emerge in leggera maggioranza, a questa ipotesi. Però in verità, alla domanda, gradirebbe disporre ogni mese di una maggiore liquidità proveniente dal suo TFR a capito di un accantonamento futuro, diciamo, c'è questa prevalenza del no che è molto significativa. Allora, sono due ragionamenti. Uno, è giusto per principio che si possa avere questa possibilità. Alla domanda singola, in verità, gli italiani, sentiti per campionatura, ritengono che il denaro vada accantonato proprio per quegli anni, che poi vuol dire anche per i figli, per un acquisto importante alla fine del proprio rapporto di lavoro. E quindi evidentemente c'è un concetto di previdenza, non si può spendere subito oggi quello che ti servirà domani. Questo è positivo. E la testimonianza, mi sembra di capire dal vostro sondaggio, poi tutti i dettagli naturalmente li trovate domani, è che la prevalenza dei sì stia, dei favorevoli, stia tra le persone che hanno qualche anno in più. Sì, sì, sì. C'è anche una differenza d'età e anche una differenza di zone, adesso appunto non ve lo anticipo, però c'è un ragionamento di libertà e c'è un ragionamento di convenienza. Ecco, noi vorremmo evitare che in questo dibattito, naturalmente non abbiamo la forza per, diciamo, per dettare noi le regole del flusso di informazioni di queste ore, che sono abbondanti, vorremmo evitare che fosse uno schieramento di massa. Andiamo a ragionare sui fatti. La convenienza, tu hai accennato prima al tema fiscale, se si porta, diciamo, una quota del TFR all'interno dello stipendio, è chiaro che la tassazione in questo momento, se non viene in qualche modo scorporata eccetera, appesantisce la tassazione, quindi voglio dire, potrebbe essere anche un danno secondo alcuni mangiarsi addirittura gli 80 euro. E poi tecnicamente come possa avvenire per le aziende, soprattutto le aziende piccole, è un altro problema, perché come sapete il TFR che rimane in azienda è una fonte soprattutto per le piccole e medie imprese di finanziamento. E che cosa succede a queste aziende? Che dovranno rivolgersi alle banche, piccole e medie aziende. Le banche dicono d'altra parte, va bene, io posso anche fare anticipazioni eccetera, posso supplire con dei prestiti così, ma chi mi assicura poi che l'azienda, non per il TFR, per altri motivi, non vada a catafascio e quindi mi rimane in mano il debito? Il cerino, voglio la garanzia di Stato. Ecco, questo è il momento, diciamo, tecnico di discussione. Anche perché le banche sono sotto osservazione e quindi il rischio che questa eventuale liquidità che va a fluire sulle imprese vada a ricadere nella valutazione dei loro criteri patrimoniali c'è effettivamente. Ma assolutamente sì, qui è come sempre, tu hai usato il termine cerino che è perfetto in questo momento, che rimane il cerino del rischio, ripeto, non per la destinazione del TFR che può essere una delle componenti, ma se un'azienda poi va in difficoltà rimangono, diciamo così, delle insolvenze, rimangono dei crediti insoluti, rimangono in capo alle banche e le banche preferirebbero non averlo, avendo già una mole di sofferenze notevole. È chiaro che da parte di tutti c'è l'interesse a far riprendere un po' i consumi, a ridare liquidità alle famiglie. E capisco anche le famiglie che in questo momento vorrebbero avere 100 euro in più per far studiare i figli, per non indebitarsi, anche per i consumi. L'unico elemento di ragionamento è come Plus 24, come sapete siamo abbastanza attenti anche ai temi del comportamento dei risparmiatori, di fare attenzione che quello è un presidio anche per alcuni anni della propria vita dopo la fase lavorativa, ma qualche problema di salute in più, qualche problema che può nascere, insomma. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, bentornati a Focus Economia. Come vi dicevo, ripristinati gli sms 349-238-6666, però continuate a scriverci su Twitter, l'hashtag è auguriradio24, si compiono 15 anni, in realtà la data precisa sarebbe domani, però domani è sabato e le trasmissioni, quelle che sono in mezzo alla settimana, non vanno in onda. Alcuni dei tweet che avete mandato: Massimo Stabile, auguri Radio 24 per essere il mio pane quotidiano, inizio a fare il pendolare 15 anni fa e da allora pendolo con voi. Giuseppe Crisci, è così interessante e piacevole ascoltarvi che non mi sono accorto che sono già passati 15 anni. Grazie. Maurizio Musardo ci fa gli auguri per una grande radio, un grande servizio. Continuate a scriverci, così come fa Roberto che dice auguri, la passione la sento. Allora, prima di andare ai mercati che vi dico chiudono bene, un più 1,5% sul FTSE MIB, un più 1,45% sul FTSE All Share, tutti confortati dall'andamento dell'occupazione americana, dati molto migliori delle attese. Dato che abbiamo parlato di politica del governo e di TFR, tocchiamo anche un altro argomento. È in corso il convegno sul digitale Cambiare per Cambiare, in questi giorni a Capri. C'è là il nostro Enrico Pagliarini che ha intervistato Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale. Allora, un governo che si presenta giovane, con un'attenzione appunto al digitale molto forte, alle nuove forme di comunicazione. Come si sta muovendo su questo fronte? Sentiamo. Il nostro giudizio è che la macchina si è cominciata a muovere, perché abbiamo innanzitutto delle pedine in campo, delle responsabilità ben precise, abbiamo la commissione, abbiamo il direttore dell'agenzia, abbiamo tra l'altro diversi degli ultimi provvedimenti che contengono del digitale, lo sblocca Italia ha del digitale dentro, il piano per la scuola ha, della buona scuola ha del digitale, quindi direi ci sono dei segnali importanti. Ovviamente non basta, adesso dobbiamo passare in una fase esecutiva molto molto molto più marcata. Tra l'altro le cose da fare sono chiare, lo sappiamo tutti, sono quelle 4-5 piattaforme strategiche fondamentali per la PA: il fascicolo sanitario elettronico, il fascicolo dello studente, l'identità digitale, l'anagrafe unica del cittadino, quindi sono cose che conosciamo. Ecco, su queste ci si deve impegnare perché si possono fare in tempi brevi. Certo, questo cosa richiede? Richiede anche ridisegnare i processi della pubblica amministrazione. È da lì che vengono i grandi risparmi. Quando ieri Cottarelli parlava di spending review e parlava di cifre, stiamo parlando di 0,5%. Ecco, in un'impresa, certo, va fatta la spending review, cioè devi andare lì cross the board e tagliare, ma i veri risparmi si ottengono quando tu innesti del digitale in processi nuovi di impresa. È questo quello che deve fare la pubblica amministrazione. Allora, per non complicare, perché già la macchina è molto complessa, partiamo con poche cose che danno l'esempio all'interno della pubblica amministrazione e anche verso le imprese, verso i cittadini. Diamo l'esempio che si può fare. Dopodiché, piano piano, cominciamo a ridisegnare la pubblica amministrazione. Ma intanto partiamo con delle cose. Ecco, questo è quel messaggio che mi sembra stia emergendo e che, perlomeno io come Confindustria Digitale, mi sento di proporre in maniera forte. Quindi sostanzialmente lei è ottimista. Ma io devo essere più ottimista, dobbiamo essere tutti quanti realisti su un fatto, che se noi non chiudiamo questo gap di 25 miliardi di euro all'anno non investiti in ICT, il paese non crescerà mai. Questo è il vero motore della crescita. Produttività, competitività e ICT sono un'equazione unica. Altrimenti noi saremo sempre a cercare i motivi della non crescita. Il paese deve diventare più competitivo. La pubblica amministrazione più efficiente, con servizi migliori, le piccole imprese devono esportare attraverso la rete, devono vendere di più attraverso la rete. Solo il 4% delle imprese italiane piccole fa transazioni online contro il 17% europeo. Non ci siamo. Ecco, che cosa si sente di dire alle piccole e medie, ma anche alle grandi aziende italiane, perché l'industria ha una responsabilità nel non investimento in ICT. Assolutamente vero, la responsabilità qui è un po' collettiva. Alle grandi imprese io dico, perché loro sanno abbastanza quello che devono fare, ma io dico inserite di più nel vostro ecocircuito, ecosistema, tutte queste start-up che ci sono in Italia, perché sono un focolaio, un potenziale di giovani, donne, uomini pieni di idee, pieni di iniziative che hanno bisogno di far diventare industriali le loro iniziative. Ai piccoli imprenditori dico, guardate il vostro vicino, quello che è riuscito a aumentare il fatturato grazie all'e-commerce, che è diventato più efficiente. Così dunque, Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale. Questo tweet lo leggo perché secondo me è il più bel complimento che si può fare a un giornalista, a un gruppo di giornalisti, a una radio che cerca di fare il nostro lavoro. Arriva da Michele Chietera, sempre l'hashtag e sempre auguri Radio 24, ci dice grazie per aver reso comprensibili questi anni. Andiamo alla borsa, Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, l'ascoltatore mi scrive su Twitter, sì, oggi chiude benissimo il MIB, ieri praticamente stavamo già prendendo le misure per la bara, non ho detto che chiude benissimo, ho detto che chiude positivamente, un più 1,5%, un più 1,46%, diciamo che una metà di questo rialzo, Ceo, lo dobbiamo alle buone notizie agli Stati Uniti. Sì, diciamo che ha riguadagnato però a recuperare un più un meno 4%, insomma oggi abbiamo messo una piccola pezza su quello che è successo ieri, in particolare a Milano. È andata molto bene grazie, diciamo, al dato sul lavoro americano, che è stato migliore delle attese, un'occupazione americana che continua a crescere e quindi questo lascia anche un po' intuire che la Federal Reserve presto o tardi potrà tornare ad alzare i tassi, così si spiega anche il fatto che il dollaro abbia schiacciato l'euro ormai a quota 1,25 al minimi degli ultimi 2 anni. Dunque, questo è il quadro dal fronte dei dati macroeconomici. Parigi un più 0,92% per quanto riguarda le altre borse europee, Londra un più 1,24%, l'America, si diceva, il Dow Jones un guadagno dello 0,82%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,92% e il Nasdaq l'1,10%. Veniamo ai singoli titoli. Io partirei da quello che fa più impressione in una giornata come oggi, che è World Duty Free, un meno 10,64%. Oggi fa un po' fa scalpore, soprattutto perché quasi tutti i titoli sono saliti, in particolare quelli bancari. World Duty Free ha risentito molto pesantemente di quelli che sono stati dei dettagli forniti ieri dal management in una conference call con gli analisti, una conference call in cui sostanzialmente è stata data disclosure, cioè sono stati dati i dettagli di quelli che, di quella che è l'entità degli affitti negli aeroporti in Spagna. Come noto, World Duty Free è la divisione della ex Autogrill che opera negli aeroporti, questi affitti sarebbero decisamente superiori alle stime del mercato e gli analisti in questo caso parlano dunque addirittura di qualcosa di paragonabile a un profit warning, cioè a un taglio delle stime sugli utili per l'intero anno per quanto riguarda World Duty Free, di qui il forte calo di borsa. E giù anche Ferragamo oggi, meno 1,04%. Eh sì, anche Tod's segna soltanto, tra virgolette, più 0,4%, qui a pesare è sempre la situazione che c'è a Hong Kong, come sappiamo per quanto riguarda la, diciamo, la moda di alta gamma italiana, Hong Kong e i paesi asiatici sono un bacino molto importante, ricordiamo che per esempio il fatturato realizzato a Hong Kong si stima che per Ferragamo sia l'8% del totale, per Tod's addirittura il 10%. Questo per quanto riguarda Ferragamo. Allora, altri titoli, andrei a vedere le banche che si riprendono: Popolare Emilia Romagna più 3,45, Ubibanca più 3,43, Intesa San Paolo più 2,91, Monte dei Paschi più 2,5, Unicredit più 2,42, Popolare di Milano più 2,42%, Mediobanca più 2,33%, c'è Finmeccanica, ieri ne abbiamo parlato perché era particolarmente negativa, oggi un più 2,74. Anche in questo caso c'è un rimbalzo che sicuramente non copre il meno 6%, mi pare, di ieri. Ci sono attese per ciò che dirà Mauro Moretti lunedì, l'amministratore delegato di Finmeccanica, sul riassetto organizzativo del gruppo, ma c'è anche attesa per un eventuale ritorno d'attualità del dossier della controllata DRS. In questi giorni Moretti è in Nord America e c'è chi si immagina che si stia cercando anche di trovare una soluzione per la cessione di questa società. Vedo bene anche Mediaset, più 2,87, ci sono motivi particolari? No, non particolari, siamo comunque lontani dai massimi di quest'estate, quando c'era in ballo tutta la questione di premium e dello scorporo della TV a pagamento. Altri titoli da segnalare in giornata? Ma guarda, come dicevi tu, le banche, insomma, è tornato un po', anche qui un rimbalzo, ma è tornata anche un po' d'attualità la questione di un possibile risico tra le popolari, in particolare tra Ubibanca, tra diciamo della Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare. Infatti le popolari sono quelle maggiormente sugli scudi oggi, con il Biper che fa più 3,4, anche Ubibanca più 3,4%. Infine una nota sui petroliferi, ne abbiamo parlato ieri perché hanno contribuito anche quelli ieri a causa del calo del prezzo del greggio, che è l'elemento del quale parleremo tra poco, tra l'altro, con la collega del Sole 24 Ore, Sissi Bellomo. Ieri ha pesato anche quello su una giornata già negativa di suo per la delusione delle aspettative che ha fornito Draghi. Oggi Eni un meno 0,11%, siamo sempre su quei motivi? Assolutamente, perché oggi il petrolio ha perso un altro punto e mezzo, sceso a New York sotto i $90 al barile. Eni infatti segna ancora non certamente brillante, meno 0,11%, anche Tenaris, se si può assimilare comunque alla categoria dei petroliferi, perché tale è, fa meno 0,9%. Ed eccoci, sempre su Twitter, l'hashtag è auguri Radio 24. Benvenuto a Giovanni Guerra che ci dice: vi ascolto da poco e non vi lascio più. Troppo buono. Simone Margheri: grazie di essere il servizio pubblico che non c'è. Matteo Laffi, lieti di assecondare il suo morboso interesse per l'economia e l'attualità, così lo definisce. E poi chi evidentemente sta ascoltando Focus Economia adesso dice: la miglior musica in circolazione. Non so se si riferisca alle basi o vuole essere un gioco di parole sul fatto che siamo una radio di parola. E c'è in studio Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, per modo di dire, no? Perché 15 anni fa eri qua, in realtà. Ero qua, ero anch'io fra di voi, tanti auguri. Grazie Sissi. Sei ormai da tempo al Sole 24 Ore, persa nei meandri delle materie prime, e abbiamo questo petrolio che continua a scendere anche oggi. Colpa o merito, chissà, dell'Arabia Saudita? continua a scendere nei meandri delle materie prime. Ormai sono più le materie prime che scendono che quelle che salgono, devo dire. Per il petrolio si stanno aprendo però degli sviluppi molto interessanti per noi che ci addentriamo in questi meandri, perché ormai è veramente, ormai sui mercati del petrolio c'è la guerra, però non quelle che abbiamo visto in Iraq, in Ucraina, guerre purtroppo sanguinose. Queste al mercato del petrolio sembrano non interessare più. È una cosa incredibile per chi osserva questi mercati. Prima bastava un minimo accenno di destabilizzazione in Medio Oriente per vedere schizzare in alto le quotazioni. Adesso c'è una guerra dei prezzi invece, questa sì che incontra delle reazioni sul mercato. Il petrolio, diciamolo subito, andava già giù come prezzo da tanti mesi, da tanto tempo, perché nonostante tutte le preoccupazioni che ci sono state per anni sul fatto che si arrivi a un picco del petrolio, che non basti, che non basterà, ebbene in questo momento, ovviamente solo in questo momento, in questa fase storica, ce n'è di più di quanto serva. La situazione è talmente cambiata che adesso l'Arabia Saudita sta temendo per il controllo dei suoi mercati, per il controllo delle sue quote di mercato, e ha incominciato a scontare il suo greggio, finché non l'ha fatto l'altro giorno così tanto con i listini per novembre che a questo punto è diventato evidente a tutti qual è il gioco dell'Arabia Saudita. Altro che tagliare la produzione, lei o l'OPEC, ma poi alla fine è sempre l'Arabia Saudita a tagliare o ad alzare la produzione. In realtà chi se ne importa di sostenere i prezzi, questo ci sta dicendo Riyadh, l'importante è difendere i volumi, difendere le quote di mercato, difendere il territorio da avversari che sono quelli di sempre, come l'Iran o l'Iraq, che stanno vendendo sempre di più in Asia, dove è l'unico posto dove c'è qualche sussulto di crescita dei consumi, ma anche forse anche perché gli Stati Uniti stanno diventando anche forse autonomi dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno diventando sempre più autonomi grazie allo shale oil, grazie al fracking tanto vituperato e tanto pericoloso anche per l'ambiente, ma che di fatto li ha resi di nuovo una potenza energetica. Importano sempre meno, i greggi che una volta gli Stati Uniti importavano vanno ad accumularsi su altri mercati, vanno a cercare altri mercati, e questo insomma è la situazione che però fa paura per i mercati, fa paura se vogliamo chiamarla una paura, poi vediamo se è una paura o meno, perché quando l'Arabia Saudita si mise a fare davvero questo gioco di riconquistare quote di mercato nel 1986, tanti anni fa non c'era neanche Radio 24, il mercato del petrolio crollò fino al punto che il barile costò $10 a un certo punto, in una certa fase. Non è detto che sia una cosa positiva. Ascolta, sì, c'è un ascoltatore che ci ha scritto poco fa mentre stavamo riassumendo i temi della giornata e diceva: ma non è che l'Arabia Saudita anche in questo modo mira in parte, non so se magari è solo un effetto collaterale, a far sì che ISIS si trovi meno finanziato, cioè artificialmente di fatto abbassi il prezzo del greggio in maniera che questi che stanno nutrendo con vendendo petrolio si trovino con minori finanziamenti. Potrebbe anche essere che ci sia quantomeno anche uno scopo di questo genere. Ci sono alcuni analisti che sospettano che in realtà la vittima sia la Russia più ancora che l'ISIS. La Russia non sarebbe l'unico paese, ma sarebbe certamente un paese travolto dall'eventualità di un ulteriore e sostenuto e duraturo crollo del petrolio. La Russia ha molta paura, la banca centrale russa proprio in questi giorni sta approntando un piano d'emergenza per l'eventualità in cui il petrolio dovesse andare a $60, questo significherebbe veramente la morte economica per la Russia, altro che sanzioni. C'è chi dice che questo possa essere quindi un piano organizzato addirittura di concerto con gli americani per rovesciare Putin, per danneggiare la Russia. È vero che se i prezzi del petrolio dovessero scendere molto e a lungo, ne sarebbero danneggiate anche le società americane, soprattutto quelle che fanno shale oil, perché in quel caso il prezzo di break even è ancora abbastanza elevato, qualche società più virtuosa riesce a estrarre facendo profitto già con una sessantina di dollari come prezzo di vendita, ma la maggior parte è sui 70, 80, sotto quei livelli, addirittura sotto $90 secondo Goldman Sachs ci sarebbe chi ferma le trivelle negli Stati Uniti. Allora, tu che conosci i nostri ascoltatori, perché poi hai condotto anche questa trasmissione qualche volta, sai che cosa stanno chiedendo in questo momento? La benzina. Petrolio scende, il petrolio scende, lo stanno chiedendo tutti, ma come mai benzina e gasolio non calano? In realtà un po' sono calati, però forse Ripetiamo il triste cahier de doléances solito per i carburanti in Italia e in Europa più in generale. Non è vero che non calano, è vero che si fanno più titoli sui giornali ed è più notizia e ce ne accorgiamo di più quando salgono che quando scendono, ma scendono con un po' di ritardo rispetto ai cali registrati sui mercati del petrolio, in particolar modo quando parliamo di petrolio parliamo di Brent, di WTI, ma c'è un mercato proprio anche delle benzine, del gasolio all'ingrosso che influiscono, e soprattutto però la parte del prezzo della benzina che noi paghiamo alla pompa, che è influenzata dal prezzo della materia prima, è piccola, è meno della metà del prezzo. Nel prezzo pesano moltissimo le tasse, e quelle ci tocca pagarle comunque, certo. E non sono così elastiche, e pesano anche sempre meno, a dire il vero, i margini per chi la benzina la produce, per chi la benzina la estrae dal petrolio, insomma, per usare un termine non tecnico. Ultima domanda adesso sulla strategia dell'Arabia Saudita, e brevemente, sì, tu immagino quotidianamente consulti degli operatori su questi temi, c'è qualcuno che ha una vaga idea di quanto questa strategia possa andare avanti? Il dubbio in realtà è proprio questo, più che da operatori un dubbio da analisti. L'Arabia Saudita riesce ad andare avanti a lungo con questi giochi, perché a differenza di altri paesi è vero che ha un bilancio statale molto oneroso, perché soprattutto dopo la primavera araba ha dovuto concedere sempre più soldi, agevolazioni, indennità alla popolazione per tenerla buona, però è anche vero che negli anni passati ha accumulato degli avanzi nel bilancio statale a differenza di altri. Allora, riserve. Chiarissimo, quindi vuol dire che probabilmente si fermerà quando verrà conseguito un obiettivo politico che noi in realtà ancora non conosciamo. Come mai, vi direte, non c'è la solita base house di sottofondo a Focus Economia? Perché abbiamo deciso di parlare in questa seconda parte della vicenda dell'Opera di Roma. Cosa ha fatto il Teatro dell'Opera di Roma? Beh, lo sapete, ve l'abbiamo raccontato nei giornali radio, il tema lo ha toccato anche Oscar Giannino alle 16.30. Il Teatro dell'Opera di Roma ha deciso di licenziare orchestrali e coristi, 182 persone su 460 unità in totale. Un teatro che ha un deficit di 4 milioni di euro. Naturalmente i sindacati degli orchestrali hanno bocciato il piano di risanamento proposto, che evitava i licenziamenti, quello iniziale. Con una serie di scioperi hanno aggravato il buco, hanno fatto fuggire il direttore Riccardo Muti. Quando è fuggito Muti se ne sono andati anche gli sponsor e si sono persi altri 4 milioni di euro, come evidentemente era prevedibile. E l'ipotesi di creare in sostanza qualcosa di nuovo, non per l'Europa ma per l'Italia, cioè qualcosa che in Italia non c'è, cioè gli orchestrali si mettono insieme, fanno in pratica una cooperativa o quello che vogliono, una SPA, quello che credono, insomma, e poi l'Opera di Roma, l'ente dell'Opera di Roma, gli affida il lavoro di fare gli orchestrali, stimolando evidentemente anche magari innovazioni, innesti nuovi e cose di questo genere. L'ho messa naturalmente in maniera molto positiva. C'è chi la vede male, naturalmente, e sono i sindacati. Dunque iniziamo da questi e poi ne parleremo. Alberto Manzini della SLC-CGIL di Roma, intervistato da Adriana Fracchia. Qui si sta attaccando un bene non solo di questa città ma di valenza nazionale, un bene che è di tutti. Il Teatro dell'Opera di Roma non è di Fuortes o del sindaco Marino e nemmeno del ministro Franceschini, è un bene prezioso dell'Italia e di conseguenza va difeso con questo schema mentale. Andremo a vedere le orchestre europee su quale scia stanno. A nostro avviso hanno dei guadagni quelle francesi, quelle tedesche, quelle austriache e anche quelle spagnole, che viaggiano sul doppio delle retribuzioni degli italiani. italiani, ma non è questo il parametro. Chi lavora nel teatro e sono quelli che guadagnano di più, se pensiamo alle masse artistiche, agli orchestrali, lo stipendio medio anno è di 50.000 euro lordi, perciò io vorrei capire di quali privilegi stiamo cianciando. Sono state date notizie a mezzo stampa davvero infondate. E poi c'è un tema, insomma, queste sono persone che studiano, lavorano anche e soprattutto a casa, che si comprano gli strumenti per suonare. Gli orchestrali, gli strumenti non glieli dota il teatro dell'opera, se li vanno a comprare loro. Cioè io vorrei vedere un autista dell'ATAC che si compra l'autobus per guidare in città. Io vorrei capire di quali privilegi si sta parlando. E per quanto riguarda tutte le polemiche scatenate dalla fuoriuscita di Muti, io ho letto la lettera di Muti, credo che quanto è avvenuto ieri è la risposta all'abbandono di Muti, cioè l'incapacità da parte del management di mantenere il più grande direttore musicale vivente sta nel progetto che questo management aveva in testa. Muti certamente non dirige un'orchestra che sta in una cooperativa. Noi rifiutiamo l'idea di una cooperativa. Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, buonasera. Buonasera. È Salvatore Carruba, è il Sole 24 Ore, buonasera, che è in studio con me. Buonasera. Buonasera Salvatore. Allora Fuortes, inizierei da lei. Ha sentito che vi ribaltano addosso l'accusa, cioè dicono Muti l'avete fatto scappare voi. Ma guardi, questa è l'accusa più incredibile, perché appunto il maestro ha mandato due lettere, di cui una è stata, ho diffuso l'intera testo, di un'altra, quella privata, mi sono sentito ovviamente autorizzato a diffondere alcune parti, da questo è chiarissimo. Cioè in Italia può essere veramente l'unico paese dove anche la chiarezza di una lettera possa essere interpretata in modo ambiguo. Veramente una cosa incredibile. Per quanto riguarda la ricostruzione che faceva il signor Manzini, c'è da dire questo. Dunque, quando io sono arrivato a fine dello scorso anno e si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, il teatro aveva un disavanzo di 12,9 milioni di euro, un bilancio di esercizio certificato ovviamente da società di revisione. Questo ha richiesto l'adesione, diciamo, alla legge Brai, la legge che risanava gli enti lirici. È stato difficilissimo fare il piano di risanamento che non prevedeva nessun licenziamento, nessuna mobilità e gli stessi livelli salariali. Era basato su un aumento della produttività, su un aumento dell'immagine, della comunicazione, un aumento dell'autofinanziamento attraverso la biglietteria ovviamente e principalmente attraverso l'acquisizione di finanziamenti privati, sponsor e contributi. Tutto questo è stato approvato da CISL e UIL e non dalla CGIL, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori del teatro, e non dalla CGIL che l'ha avversato, nonostante appunto il teatro continuasse a lavorare. Abbiamo fatto una tournée col maestro in Giappone di grandissimo successo. Dopodiché si è arrivati a luglio, quando abbiamo mandato il piano al commissario, al ministero, e da lì appunto è partita una stagione di sciopere, di turbolenze che hanno generato una situazione di immagine, di danno economico enorme, che sì, poi ha avuto il colpo di grazia a settembre con l'abbandono del maestro. Senta una cosa, io sono rimasto molto incuriosito, Fuortes, dal contratto agli orchestrali, perché oggi ho letto delle cose piuttosto interessanti. con, come dire, contratto che ha delle specifiche particolari, dei casi estremi per così dire, anche in termini per esempio di diaria, ma non solo. Ci vuole dare 3 o 4 esempi, perché anche per dare un'idea poi del costo che va a ricadere su un ente come il vostro. Ma il contratto integrativo purtroppo è la sedimentazione di decenni di concessioni che secondo me sicuramente non hanno fatto il bene né del teatro ma neanche dei lavoratori del teatro, sì. Perché poi siamo arrivati a queste situazioni. Sì. Diciamo che per esempio in questo teatro c'è la cosiddetta indennità sinfonica, cioè se un musicista suona un'opera anche molto lunga, immaginiamo un'opera di Wagner di 5 ore, percepisce regolarmente lo stipendio. Se invece per sbaglio la direzione artistica gli chiede di fare una sinfonia di Mozart della durata di 40 minuti, prende il doppio dello stipendio per quella giornata. Prima di partire per una tournée normalmente si decide con il sindacato il livello delle diarie, sì, delle diarie giornaliere, sì, per fare un preventivo ovviamente alla istituzione che ci paga ospita, il tour, che vi ospita, che paga, certo, il tour, certo, paga la tournée, sì, esattamente. Le richieste a settembre per una tournée prestigiosa del teatro da parte del tavolo sindacale, pagato ovviamente albergo e prima colazione, solo per la diaria ammontavano a 190 euro al giorno uomo. Voi capite ovviamente che moltiplicando queste cifre per il numero di orchestrali, di professori d'orchestra, di artisti del coro, tecnici e quant'altro, si raggiungono cifre che assolutamente portano il nostro mercato fuori, il nostro teatro fuori dai livelli di mercato. Certo, naturalmente, insomma, se mi costa di meno mi prendo quelli di Londra o quelli di Berlino, evidentemente, no? Questo è un po' il concetto che sta dicendo. Cambiato ritmo ma non argomento ancora, prima di andare a Salvatore Carruba, con l'hashtag auguri Radio 24 su Twitter ci state scrivendo per i nostri 15 anni, carina quella di Luca Onniboni che dice: non vi ascolto da quando avevo 10 anni solo perché ero impegnato con la Playmobil, grazie. Mille compleanni, ancora i migliori auguri Radio 24, compagna di quasi tutta la giornata, ci scrive Oscar, e grazie anche a lei. Allora, Salvatore Carruba, quello che è stato fatto, e poi ci torneremo tra un attimo di nuovo con Fortes, ossia licenziamento di orchestrali e coristi e di fatto esternalizzazione del servizio, può diventare un modello per il settore in Italia? Ma in qualche misura la stessa legge di riforma, mi corregga poi il sovrintendente Forte se sbaglio, prevedeva una possibilità del genere, perché prevedeva che le orchestre potessero, le orchestre stabili dei teatri lirici, potessero organizzarsi in altra forma privatisticamente per raggiungere ulteriori possibilità di lavorare. Ricordo al signor Manzini che il maestro Muti dirigeva ovviamente quando era alla Scala l'orchestra della Scala, ma non aveva nessuna vergogna a dirigere l'orchestra filarmonica della Scala, che è appunto questa forma privatistica di organizzazione orchestrale dei maestri della Scala. Quindi credo che da questo punto di vista forse parlare di licenziamento possa perfino far indurre in errore, nel senso che qui questi maestri auspicabilmente si organizzeranno e avranno la possibilità di poter lavorare ugualmente per il Teatro di Roma e magari per altre istituzioni culturali. Quindi da questo punto di vista io non vedo un vulnus, anzi credo che sia una innovazione che non a caso è stata, seppur dolorosamente come si conviene in queste occasioni, ma sottoscritta anche da persone che appartengono a un orientamento politico ben preciso come il sindaco di Roma e il ministro dei beni e delle attività culturali. Quindi sicuramente, se è vero come è vero che la riforma Franceschini, che recentemente è stata trasformata in legge, dice che bisogna inserire degli elementi di managerialità nella gestione dei beni culturali, non soltanto musicali, beh, questo passo credo che vada in quella direzione, va governato in qualche misura, ma sicuramente indica una strada che difficilmente alla quale difficilmente si potrà rinunciare, viste le condizioni spesso drammatiche delle fondazioni liriche italiane. Ripeto, spesso drammatiche. Non dimentichiamo che delle fondazioni liriche italiane soltanto due, Verona, l'Arena e la Scala, ricavano più di quanto spendano e questo, di quanto ricevono dallo Stato, e questo sicuramente è un dato che deve essere tenuto presente per capire quale può essere la sorte di queste fondazioni che anche ai comuni, non dimentichiamo, e alle città succhiano tantissime risorse pubbliche. Vorrei tornare da Fuortes. In realtà abbiamo detto che in Europa in linea di massima funziona come l'avete impostata voi, in sostanza, cioè l'orchestra è esternalizzata, però non dappertutto, sì, no? Non dappertutto. Cioè viene Berlino, diciamo, se non sbaglio invece hanno gli orchestrali assunti sostanzialmente? Allora, diciamo che i modelli prevalenti sono tre, sono quello appunto dell'esternalizzazione di cui abbiamo parlato, sono quella dei contratti a tempo determinato, cioè sono contratti quadriennali, ed è la larga parte del mondo anglosassone americano, quindi tutte le orchestre, grandi orchestre americane, i teatri americani, e di quest'estate la polemica al Metropolitan, che rischiava anche il lockout, cioè rischiava appunto la chiusura perché non si riusciva a firmare il contratto quadriennale. Quindi diciamo che le orchestre americane in linea di massima hanno dei dipendenti, l'orchestra è dipendente interni ma a tempo determinato, e quindi diciamo non è esternalizzata, però l'effetto a tempo determinato è identico, mentre in Italia e prevalentemente in Francia ci sono appunto i contratti a tempo indeterminato, i contratti a vita. Quindi anche se parliamo di musicisti, di artisti, c'è questa figura appunto del musicista. Mi scusi Fuortes, ma quindi c'è un modo di far funzionare queste cose anche con il tempo indeterminato? Sicuramente il modo c'è stato per molti anni, ovviamente ci deve essere anche un livello di finanziamento adeguato pubblico. Il problema è che da quando ovviamente è entrato in crisi il finanziamento, il sistema di welfare pubblico italiano, ma anche degli altri paesi europei, perché quello che adesso noi stiamo scontando probabilmente verrà scontato dalla Francia tra poco tempo, la Spagna c'è già passata, infatti la Spagna ha i tre teatri più importanti, e cioè Madrid, Valencia e Bilbao, sono appunto con orchestre esterne. Esatto. Salvatore Carruba, ma appunto c'è il modo di farlo funzionare con il tempo indeterminato? Perché non è che esiste solo l'Opera di Roma, cioè ci sono dei degli enti che funzionano, no? Ha ragione il sovrintendente Fuortes, può funzionare se c'è una congrua e sicura provvista pubblica, perché non dimentichiamo che in Italia il modello delle fondazioni ha funzionato solo in pochi casi, appunto Milano, Verona, ma in tantissimi altri casi di enti lirici trasformati in fondazioni l'apporto dei privati è stato un apporto spesso pressoché simbolico. Non dimentichiamo tra l'altro che uno di questi soggetti pubblici che quasi sempre partecipavano, cioè privati che partecipavano alle fondazioni liriche, sta per scomparire in questa sua veste, sono le camere di commercio, che hanno delle grosse difficoltà adesso a partecipare a queste fondazioni. Quindi il modello pubblico può funzionare se appunto c'è un contributo pubblico sostanziale, che ribadisco non è soltanto dello Stato ma anche dai comuni, altrimenti bisogna trovare il modo di aumentare la produttività, da un lato e modo di aumentare le entrate private dall'altro. Altre condizioni mi pare che siano assolutamente impensabili. Un'ultima domanda per lei, Fortes, che riguarda ancora una volta i licenziamenti, no? Abbiamo visto 182 persone, orchestrali e coristi, su 460 unità in totale. Questa è un'altra cosa che dicono i sindacalisti, dicono: ma come, mandate via noi e rimane un numero di amministrativi enorme sostanzialmente. Il numero che rimane non sono amministrativi, il teatro ha tante professionalità che non sono amministrativi, nel teatro ci sono i macchinisti, gli elettricisti, gli attrezzisti, ci sono, noi abbiamo uno dei migliori uffici di sartoria, laboratori di sartoria, abbiamo le falegnamerie, abbiamo un grande laboratorio di scenotecnica, c'è il corpo di ballo, che diciamo anch'esso assolutamente sottodimensionato, perché sono solo 13 danzatori a tempo indeterminato, quindi sono tante le specificità. Diciamo che l'orchestra e il coro sono i due corpi tra virgolette maggiormente rappresentativi, che costano circa 12 milioni e mezzo di euro l'anno e quindi per quello l'esternalizzazione si è concentrata, perché un'azione su quella avrebbe prodotto un risparmio molto importante. Allora la ringrazio, grazie a Carlo Fortes, sovrintendente teatro dell'Opera di Roma. Grazie a voi. Ringrazio anche Salvatore Carruba del Sole 24 Ore che è stato con noi. Chiudiamo così questa puntata di Focus Economia e vedremo poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, che effetti avrà tutto questo, tanto naturalmente sull'Opera di Roma, e poi se ci sarà una sorta di effetto domino nelle situazioni, per così dire, più difficili, quantomeno per la lirica italiana. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo di continuare su Twitter ad utilizzare l'hashtag AuguriRadio24. Domani si compiono 15 anni, ma iniziamo a festeggiare da oggi, naturalmente. Buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.